38 minuti dopo la mezzanotte, benvenuti all'ascolto di Rai Stereo Notte. Come tutte le notti, dalla mezzanotte in poi, dal giornale della mezzanotte al giornale dall'Italia, da via Po 14 00 198 in Roma, sulle tre reti unificate in modulazione di frequenza, il quinto e sesto canale della filodiffusione. Una tranquilla notte di giugno dove tutto è a posto, niente in ordine, c'è Ernesto De Pasquale al microfono, sarà seguito da Alex Righi e, se i conti non mi ingannano, alle 3 ci sarà Alessandro Mannozzi, alle 4:30 Alberto Castelli, che ieri sera diceva: potete arrivare anche un po' in ritardo all'ultimo turno, non c'è problema, ma dovete arrivare puntuali al primo turno. A questo primo turno, naturalmente, un invito, che è quello di scrivere. Fatelo sempre, l'avete sempre fatto, la trasmissione di Pierluigi Tabasso è sempre al suo posto ogni notte per sottolineare i vostri movimenti, ecco. E stasera di movimenti in giro ce n'erano tanti. Qui a Roma la città era piena di animosità, proprio per questo ho deciso di cominciare così, con un po' di rock and roll. Una formazione si chiamano Godfathers, l'ho vista qualche tempo fa, non in Italia, a Amsterdam. Veramente incredibili. Questo si intitola She Gives Me Love. Siamo fortunati perché qualcuno riesce ancora a cogliere il senso di urgenza del rock and roll. Questi vengono dall'Australia, si chiamano Neptunes. Il brano si intitola Idrofobia. giovanissimi Neptunes, il brano si intitolava Idrofobia. Bene, è tornato un grande artista, si chiama Todd Rundgren. Questo è tratto dal suo nuovo album, si intitola Nearly Human, quasi umano. Il brano si intitola Unloved Children. Factory somewhere keeps on cranking them out. Seems like they're traveling fast, not worth the trouble of a two full of clout. Somebody must play his game. They get stuck in the here and now, lending and borrowing pain. Is this your face? You kiss the ground. Amici, siamo al sicuro, questa musica dimostra che il rock and roll sta vivendo ancora un momento di grande grazia in questi ultimi mesi degli anni Ottanta. Questo è David Bowie, Tin Machine, siamo tutti Prisoner of Love. We'll be right back. Prisoner of Love era la nuova band David Bowie, si chiamano Tin Machine, una band di rock and roll, due chitarre, basso e batteria, un benvenuto in Italia a Rapid Eye Movement, meglio riconosciuti come R.E.M. Ram. Questo è tratto dal loro ultimo album Green. Hanno suonato questa sera a Milano, domani a Bologna, dopodomani a Perugia. Questo è World Leader Pretend. Let me make it good. I raise the the wall, and I will be the one to knock it down. I've a rich understanding of my finest defenses. I proclaim the claims are left unstated. I demand a rematch. I decree a stalemate. I divine my deeper motives. I recognize the weapons. I practiced them well. I fitted them myself. It's my mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Reach out for me. This is my world, and I am a world leader. Pretend this is my life, and this is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raise the walls that I've constructed. It's amazing what devices you can sympathize. This is my mistake, and let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Fill in the mortar, you fill in the harmony, you fill in the mortar. I raise the wall, and I'm the only one. I will be the one to knock it down. Un nuovo grande inno generazionale per poter decidere, per poter scegliere, per poter anche sbagliare. Questo era World Leader Pretend. E non succede niente a questo punto, ma quello che dovrebbe accadere è molto vicino e molto simile per il suono a quello che abbiamo appena ascoltato. Vediamo se arriva. Eccolo qui. Anche i compact disc sbagliano, probabilmente più dei vecchi vinili. Tom Petty che canta una vecchia canzone dei Birds di Gene Clark, Feel a Whole Lot Better. Your love was all mine. simile all'originale nota per nota dall'album solista, primo album solista di Tom Petty, si intitola Full Moon Fever. Questa era Feel a Whole Lot Better, Jeff Healey Band dal Canada, un chitarrista incredibile. Questo è un grande classico, forse i più grandi celli se lo ricorderanno nella versione storica di tantissimi anni fa, e John Mayall Blues Breakers con Eric Clapton. Questa si intitola Hideaway di Freddie King. Jeff Healey Band, a Hideaway, sta per arrivare un bastimento carico di blues in Italia. Al prossimo weekend ci sarà un grosso appuntamento a Rovigo, poi 28, 29, 30 giugno, 1 luglio, 2 di luglio a Pistoia, Festival Blues di Pistoia, che oramai è un avvenimento a livello internazionale, ma parleremo di questo cartellone, di questi cartelloni più avanti nel corso delle prossime serate. Una chitarra acustica suonata da una giovane ragazza per una formazione inglese con nome americanissimo, si chiamano Texas. Questo è il loro album di esordio, dal titolo Prayer for You. That's all I want you to know, that I'll never turn my back on you and leave you out there on the road. I could never hide my feelings, I could never let you fall, and I want you to remember all the life that I've now found. Oh, I say a prayer, that for you, oh, for you. I can never make promises, I'd only break it in the end. Looking for the answers, you never trust me again. I can never watch you suffer, I can never let you down, and I hope you soon discover all the truth that I've now found. A volte facendo questo mestiere può accadere di essere un attimo straniti da quello che accade nel mondo della musica, però basta arrivare davanti a questo microfono, un microfono di Stereonotte, suonare la musica giusta, capire che il rock and roll ancora esiste, che c'è della bellissima musica in giro, che c'è della gente che ha voglia di farla, tutto torna al proprio posto. 19 Forever, Joe Jackson. Like the way we always were, so young and free from 19 Forever, Joe Jackson dall'ultimo album Blaze of Glory, un musicista veramente poliedrico, grande personaggio, grande artista sotto tutti i punti di vista, così come lo è Todd Rundgren. Prima abbiamo presentato un brano dal suo nuovo album che si intitola Nearly Human, questo è un altro brano, si intitola I Feel It. Don't even try to Un brano che carburava veramente forte, era tratto dal nuovo album di Todd Rundgren, I Feel It, un bellissimo groove circolare. Questo è, ha un titolo un po' strano, è un blues rovesciato, diciamo così. Sono Wendy e Lisa, si intitola I Think It Was December, ma si stavano sbagliando perché era giugno. Cambia musica, non cambia il produttore. Questi sono i Fine Young Cannibals, il loro ultimo album si intitola I'm Not Satisfied. Un brano apparentemente normale, tratto dall'ultimo album dei Fine Young Cannibals, si intitolava I'm Not Satisfied, così come apparentemente normale era il blues di Wendy e Lisa, che si intitolava I Think It Was December. Apparentemente normale anche quello che stiamo per ascoltare adesso, da parte di una band fantastica, stranissima, che ha continuato a lavorare duro, veramente duro, per tanti anni. Questo è il loro ultimo album, sono i Perry Ubu, l'hanno sentito a Cry. Si intitolava Cry, erano i Perry Ubu, dal loro ultimo album, sono le 1:31 minuti 55 secondi, voi siete l'ascolto di Resteri Notte, io sono Ernesto De Pascale. Allora, abbiamo ascoltato i Godfathers, i Neptunes dall'Australia, due brani di Todd Rundgren, Tin Machine con David Bowie, i Ram per facilità, così, Tom Petty, Jeff Healey Band, e questa formazione si chiamano Texas, Joe Jackson, Wendy e Lisa, Fine Young Cannibals e questa Cry. Termina qui il primo spazio di Stereo Notte, ha lavorato insieme a me Andrea Amedei, e a questo punto, prima di lasciare la linea a Alex, io auguro a lui buon lavoro, passo un attimo la linea invece a Via del Babuino, dove c'è, per un aggiornamento sulle notizie, Gaetano Barresi. Questo è tutto da parte mia. Grazie ad Ernesto De Pascale, un cordiale saluto dalla redazione di Via del Babuino.